quattro vai così, una gota bambolina, e la vecchia bambolina sia quei dì. La mia nonna da piccina divertì, bella non è per ora, chiude con sé quel non so che di poesia. La mia nonna braculata con amore, quella bambola formata sul suo cuore, e quanti sogni di quei dì conoscerà questa puffa di cent'anni fa. Forse fa i tormenti di gioventù della nonna che ha sofferto, già parlava con lei d'amore. Forse fa i sospiri d'un giovin cuore confidati allora.